punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Eccolo qua, abbiamo seguito per parecchi mesi in passato gli Yes Weekend di Obama. Questo invece è Changement, cambiamento, e se maintenant, è adesso. Devo dire che non si sono sprecati gli autori, cambiamento adesso. Questo è l'inno di François Hollande, nuovo presidente francese, ritorno di un socialista all'Eliseo. Ed è una settimana, quella che raccontiamo, iniziata proprio al ritmo dei seggi, del voto. Intanto un buongiorno a tutti, cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia, dalla Francia, quindi un voto che rischia di condizionare davvero la politica europea, per poi parlare di Grecia, parlare di Italia. Insomma, questa settimana è anche la settimana del voto politico e amministrativo in molte parti d'Europa, ma è anche la settimana che si conclude con l'allerta tedesco sul quello che viene ormai definito il tira e molla greco. La posizione della Grecia preoccupa e indispettisce. Allora cominciamo con Sergio Nava, che ci fa il punto su questa situazione. Evangelos Venizelos, vecchia volpe della politica greca, lascia intravedere l'obiettivo fin qui considerato irraggiungibile: la formazione di un governo di coalizione guidato dai socialisti del PASOK, che riunisca i conservatori di Nea Democrazia e la manciata di deputati di Sinistra Democratica intorno a un programma di permanenza di Atene in Europa e nell'Eurozona. Unico problema: Sinistra Democratica non accetta le condizioni imposte dal memorandum che ha fissato i termini del maxi prestito europeo. Prestito arrivato ieri in una nuova tranche da oltre 4 miliardi sborsata dalla IFSF, mentre la disoccupazione ellenica sfiorava il 22%. Il presidente della Commissione europea Barroso, intanto stanco del teatro politico greco, sbottava: se qualcuno non rispetta le regole, meglio che lasci l'euro. Il tira e molla tra Atene e Bruxelles continua, con esiti ancora imprevedibili. Wachstum durch Strukturreform. Da Berlino la cancelliera Angela Merkel ribadiva la sua linea in Parlamento: sì al rigore combinato alla crescita, ma con una crescita basata su riforme strutturali e non sui debiti. Quindi il no sempre deciso agli eurobond. Frau Merkel cedeva solo pochi millimetri in attesa dell'incontro martedì con il nuovo presidente francese François Hollande, il quale, risolto il rebus del premier, potrà concentrarsi su quella strategia di cambio di rotta in Europa che proprio la Merkel sembra temere. Sullo sfondo le ultime previsioni della BCE: la ripresa è graduale ma presenta rischi, soprattutto gli indicatori sulla disoccupazione in Europa fanno segnare un ulteriore peggioramento. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Ripartiamo dunque dalla Grecia, Grecia di cui nelle ultime ore, negli ultimi giorni, di fatto dopo il voto, si fa un gran parlare intorno alla costituzione di un governo difficile, in alcuni momenti apparentemente impossibile. L'affermazione dell'estrema destra, la svastica in chiave greca che torna ad Atene, insomma una settimana davvero complessa, ma i temi, quelli del debito, quelli del modo in cui la politica anche greca ha gestito la pubblica amministrazione, ci riportano con i piedi per terra, e ci aiuta in questo senso il nostro inviato ad Atene Dario Ricci, riportandoci una conversazione, un'intervista con un importante fiscalista. Si tratta di Panagiotis Pantelis, che ci spiega come la Grecia è riuscita ad arrivare a tutto questo. Il tasso dell'evasione in Grecia negli ultimi decenni è stato elevatissimo, perché non è stato nessun controllo da parte dello Stato come eliminare l'evasione fiscale. Quello che uno deve dire, per vederlo anche con il risultato elettorale, è che se nel 2009 6 su 10 erano evasori fiscali, oggi, 2 anni e 2 anni e mezzo dopo, 7 sui 10 sono evasori fiscali, il che significa che l'ultimo governo di 2 anni e mezzo non ha fatto proprio nulla, anzi è stata aumentata l'evasione. Ecco, ma com'è possibile? Perché com'è possibile aumentare l'evasione? L'evasione, questo storicamente lo sanno tutti gli studenti di economia, che dal momento che arrivano i tassi sui 45%, l'unico problema che ha ogni imprenditore è di come evadere, perché ovviamente non riesce a pagare le tasse. Dalla Grecia, dalla Francia, dalla Grecia, ritorniamo in Italia invece. Dunque, domenica, lunedì, le amministrative, se ne è parlato giustamente molto, il voto è parziale, non riguarda grandi città, ma insomma, chi ha voluto vedere il primo segnale, un segnale preciso, l'ha visto, quello che riguarda i partiti, in particolare il PDL, ma i grandi partiti classici, e dall'altra parte un'affermazione che porta in primo piano nella politica italiana, almeno per quello che riguarda appunto queste giornate delle amministrative, il Movimento 5 Stelle. Allora sentiamo subito un servizio che parte con le parole del Presidente della Repubblica Napolitano proprio su questa affermazione. Ma io insomma di boom ricordo quello degli anni 60 in Italia, altri boom non ne vedo. Risponde in modo ironico il presidente Napolitano ai giornalisti che gli chiedono un commento sul boom alle comunali delle liste legate a Beppe Grillo. Quello di domenica e lunedì è stato un test elettorale di portata circoscritta, ma che offre comunque spunti di riflessione, sostiene il capo dello Stato. Ci sono motivi di riflessione per le forze politiche e direi ci sono motivi di riflessione per i cittadini, per tutti, sul rapporto con la politica e sui problemi di governabilità. Problemi che oggi si pongono a livello locale, ma che possono avere anche una rilevanza nazionale, come si è visto in Europa, in diversi paesi, rileva Napolitano riferendosi in particolare al voto in Grecia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E allora sentiamoli alcuni di questi grillini appunto che sono stati ospiti poi nella settimana a Radio 24. Cominciamo da Davide Bono, portavoce di Piemonte a 5 Stelle. Io penso che siano i cittadini che rispondono nelle urne, che è la risposta migliore, e che votano se stessi fondamentalmente, perché comunque hanno voglia di realmente di riprendersi in mano un po' la gestione, partendo dai comuni, che è proprio la propria casa, il posto più vicino alle problematiche della vita di tutti i giorni, e quindi si costituiscono in liste civiche che si presentano, alcune sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, e provano quindi a dare uno scossone alla loro città, che purtroppo da Parma, ma io in Piemonte citerei Alessandria, che è praticamente in dissesto finanziario, o anche la stessa Torino, che insomma è quasi lì vicina, che provano quindi a dare un segnale forte a tutto il paese, insomma, che la politica si può fare senza strutture partitiche, quindi tutta la burocrazia, tutte le gerarchie, e soprattutto ribadiamolo, senza soldi. E ancora, diciamo, nello stesso movimento, nello stesso ambito, invece una voce che arriva da Palermo è quella di Riccardo Nuti. Nuti, io sono rimasto folgorato dalla sua apparizione a Omnibus, credo sulla 7, dopo 50 minuti di silenzio, su come ha replicato a Buttiglione che le diceva «Sì, io ho ragione», e lei che gli ha detto «Ha ragione, infatti da 20 anni che parla e questi sono i risultati». Ma è questo il segreto dell'efficacia della vostra comunicazione, per cui la gente vi ha premiato almeno queste elezioni? Più che altro questo casomai è il motivo per cui le persone non votano più persone o gruppi come Buttiglione e Company. Non è tanto il motivo per cui veniamo votati. Noi diciamo più che altro veniamo votati da chi magari ha la voglia di leggere i nostri programmi, li condivide, li sposa in pieno o magari in parte e quindi ci vota. Non è tanto il fatto di non votare quelle persone. Cioè, i due elementi vanno in parallelo. Ci sono persone che non votano più questo tipo di personaggio come Buttiglione, e ci sono persone che votano noi. Di conseguenza gli effetti di entrambe le cose fanno sì che noi otteniamo delle percentuali considerevoli. Senta, ma lei l'ha capito, lo condivide questo, che non è un vero e proprio diktat, consiglio di Beppe Grillo, ma si sa, quando appunto ci diceva Scanzi, se Beppe Grillo dà un consiglio è meglio seguirlo, no? Sulla questione non andate in TV, la TV è il male assoluto, fate una pessima figura, poi ci sono sti volponi che vi fregano, lo condivide? Ma io, vista la mia esperienza che ho fatto giorno 8, poi questo commento, questo post è uscito giorno 9, io con l'esperienza che ho fatto giorno 8 condivido, nel senso che anch'io darei questo consiglio a tutti gli altri ragazzi del Movimento 5 Stelle, perché ho sperimentato sulla mia pelle che è inutile. Sono stato per 50-55 minuti in uno sgabuzzino con una sedia su un tappeto impolverato, a non fare nulla, a ascoltare gli altri che parlavano del Movimento 5 Stelle, senza poter dire niente se non rispondere a una domanda alle 9, che era l'orario a cui avrei detto che me ne sarei andato. Cioè, secondo me non c'è mai tempo di approfondire in questi programmi, quindi di conseguenza diventa un po' tempo perso. È tempo perso. Sulla questione degli apparentamenti al voto, cioè che succede al secondo turno? Il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare qualche alleanza? L'ascolta anche Beppe Civati del Partito Democratico? No, non facciamo nessuna alleanza, l'abbiamo già detto, penso sono arrivato almeno a dirlo in 50 interviste, quindi... Nessuna alleanza. Sempre la stessa domanda, nessuna alleanza. Nessuna alleanza. Per molti commentatori politici si è trattato di un voto di protesta, fondamentalmente un voto da paragonare all'astensione, il voto degli scontenti. Forse perché oggi sono in molti in Italia ad essere scontenti, ma gli elettori dei grillini non possono essere descritti come persone che vivono ai margini della società. Così scrivono su lavoce.info Massimo Bordignon e Vincenzo Galasso e dicono: anzi, si tratta per la maggior parte di uomini tra i 35 e 45 anni, con un elevato titolo di studio, che risiedono nelle grandi città. Gli elettori del Movimento 5 Stelle non sono dunque solo indignados, giovanissimi, che come in Spagna vedono il loro futuro ipotecato, sono piuttosto i rappresentanti di una delle fasce d'età tipicamente più dinamiche della società e del mercato del lavoro, che dovrebbe essere in prima fila per contribuire alla rinascita e alla crescita del paese. Ma a proposito delle riflessioni, se non vogliamo tanto parlare di lezioni da tirare dalle amministrative, sentiamo invece quello che vent'anni fa rappresentava appunto il voto di protesta, così si diceva addirittura, il voto inutile, che poi è diventata la Lega, il sindaco di Varese. Allora sentiamolo, ospite a 24 mattina è Attilio Fontana. In queste elezioni è finito un certo modo di fare politica, secondo il mio modo di vedere le cose. È finito lo schematismo dei partiti, la contrapposizione fine a se stessa. Lo sto dicendo da tanto tempo, è inutile che ci troviamo a discutere se abbiamo perso per colpa della Lega, per colpa del PDL, per colpa del centro-sinistra. Sono cose superate ormai, non possiamo più fare la fine dei capponi di Renzi. Si continua a cercare di strapparci due preferenze facendo la battuta a defetto o dicendo la cattiveria che più attrae l'attenzione, non abbiamo capito niente, perché il mondo sta andando in un'altra direzione. In che direzione invece va il PDL? Un'idea ce l'ha Giancarlo Galan, già ministro della cultura, che dice stop al cerchio magico del Popolo della Libertà, composto da Cicchitto, La Russa e Gasparri. Sentiamolo. Se si osserva al di là della linea politica nazionale, si osservano i comuni, è stupefacente. Ci sono uomini del PDL che hanno ottenuto un grande consenso personale, quindi gli uomini ci sono, manca il partito, ahimè, mi tocca dire questo, ma andando in giro e scegliendoli diversamente da come sono stati scelti fino ad oggi, gli uomini ci sono. Ma cosa dovrebbe fare un repulisti il Popolo? Cioè Berlusconi arriva e dice via quello. Beh, insomma, qua quando si perde così clamorosamente si va a casa, si fa un altro lavoro o ci si mette dietro le quinte e si manda avanti qualcun altro. Noi eravamo il partito che voleva e che era determinato a cambiare tutto. Siamo diventati il partito da cambiare. Qualcuno ne ha la responsabilità, mi metto anch'io fra quelli, sa. Chiudiamo questa pagina con il commento di Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. È un po' tutto il sistema politico che esce male da questo voto, in particolare il PDL, chiaramente perché è un partito che è entrato ormai in una fase di profonda ristrutturazione e di profonda crisi di identità. È il voto che si caratterizza per la grande affermazione del movimento di Grillo e per alcune affermazioni di alcune personalità come Tosi o Orlando che hanno approfittato di peculiari situazioni. E da un certo punto di vista è un voto che manda un messaggio molto preciso alle forze politiche vecchie e nuove. Quelle vecchie devono sapersi rinnovare, adesso mai più. Andare a mettere in discussione il governo dopo un risultato di questo genere che ha dimostrato la debolezza delle forze politiche e l'avvento di nuove forze incontrollabili come i grillini significa precostituire un destino di tipo greco, direi, perché mettere in crisi il governo Monti vuol dire andare subito a elezioni anticipate in cui possono prevalere i fattori di disgregazione e di frammentazione. Questo è un voto molto frammentato e volerlo riportare su scala nazionale significa, a mio avviso, commettere un gravissimo errore. Punto e a capo. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Ripartiamo dalla giornata di martedì. Nel pomeriggio il servizio di Andrea Ferro da Genova che ci racconta un agguato terrorista contro un dirigente di Ansaldo Nucleare. La rivendicazione è tarda ad arrivare, ma era già successo con gli omicidi di D'Antona nel 99 e di Biagi nel 2002. Per questo motivo i detective dell'antiterrorismo aspettano ancora e nell'attesa impalcano le indagini su un identikit che viene elaborato dai RIS sulla base della testimonianza dello stesso Adinolfi. Corrisponde ad un uomo alto circa 1,85 m, cappelli scuri, un taglio di occhi particolari. Contemporaneamente sullo scooter ritrovato alcune ore dopo l'agguato si cercano impronte, finora vanamente quasi certo che i due attentatori abbiano usato guanti, d'altronde l'agguato era stato preparato nei minimi dettagli, per esempio questo scooter era stato rubato il 12 febbraio alle spalle della città in un comune dell'entroterra, altra circostanza che rafforza la pista dell'eversione. Un aggiornamento dall'ospedale San Martino sulle condizioni di Roberto Adinolfi, ha trascorso una buona notte, non ci sono complicazioni per quanto riguarda la ferita alla gamba e dicono i medici già dai prossimi giorni potrebbe tornare a casa. Nel frattempo, come avete sentito nei giornali radio, la rivendicazione è dunque arrivata. Per lunedì intanto l'annuncio di una manifestazione a Genova, proprio negli stabilimenti genovesi di Ansaldo Nucleare e Ansaldo Energia, una manifestazione contro il terrorismo. Punto e a capo. L'Europa si trova ancora in una situazione economica difficile, questo perché non ha compiuto alcuni dei passi e preso alcune delle misure che sono state invece prese qui negli Stati Uniti. Così parla Barack Obama, il presidente Barack Obama, e la risposta immediata nel giro di un'ora scarsa arriva invece da Bruxelles. Portata, firmata da Olli Rehn, commissario responsabile all'economia, dice sarebbe semplicistico affermare che la strategia europea di austerità di bilancio non funziona. Ma insomma, un botta e risposta che ci porta tra Stati Uniti ed Europa, ma per ricordare anche che in realtà la notizia americana della settimana è invece legata a un altro intervento del presidente. It is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married. Le coppie dello stesso sesso dovrebbero essere in grado di sposarsi. Questa la frase, la voce l'avete sentito Barack Obama durante un'intervista a ABC e forse segna anche un momento di passaggio in una campagna elettorale, lo ricordiamo, per le presidenziali di autunno, in cui il presidente degli Stati Uniti era stato accusato di eccessiva timidezza proprio sul tema delicato dei diritti civili. Allora, con questa breve frase probabilmente Obama ha fatto la sua scelta, anche forse scelto di insistere su quello che era stato il messaggio che l'ha portato alla Casa Bianca, cioè un messaggio di cambiamento rispetto a un messaggio di conservazione e continuità. E dagli Stati Uniti alla Siria, 430 i giorni di ribellione e di violenza, settimana di attentati da una parte e di attacchi nei confronti dei caschi blu, insomma della prima avanguardia dei caschi blu, e poi di attentati autobombe nella capitale, Damasco, oltre 50 morti. Ecco, su questo tema vi segnalo che questa sera alle 19.30 avremo ospite Alberto Negri, che inviato del Sole 24 Ore, testimone oculare degli eventi in corso a Homs e a Damasco. Nel corso di 30 minuti in cronaca ci racconterà, appunto, sarà il testimone dell'attualità di un paese che da oltre un anno vive, appunto, un clima di violenza che non fa che crescere. Un altro genere invece di violenza ci porta nel continente africano. Il governo nigeriano proprio l'altro ieri ha rivolto un appello al cessate il fuoco e al dialogo della sua società, e tutto questo dopo gli agguati incessanti, bisogna dire, attribuiti al gruppo islamista Boko Haram. L'arcivescovo di Abuja, John Anikechan, al microfono di Katia Caramelli, racconta la situazione, appunto, nigeriana vista dall'interno. Sentiamola. Tutto il paese è sotto la paura di questo piccolo gruppo di terroristi, anche se sono terroristi islamici, perché uccidono tutti, non solo i cristiani. Non è che in Nigeria siamo davanti a una situazione dove un piccolo minoranza debole dei cristiani viene perseguitati da un grande folla di musulmani. Non è così. Attaccano le istituzioni dello Stato, attaccano gli agenti di sicurezza, attaccano la gente normale con bombe nelle piazze pubbliche. Un paese che soffre adesso di un governo debolissimo, che non sa come affrontare le responsabilità di un governo. Grandi persone nel governo rubano mucchio di soldi, ne parlano tutti e niente succede. Durante le elezioni vengono truffati. Ciò vuol dire che allora che il governo non è capace di affrontare i problemi del paese. E in questo contesto generale escono fuori un piccolo pugno di fanatici musulmani. L'arcivescovo di Abuja, dunque capitale della Nigeria, vi segnalo l'intervista integrale, andrà in onda domani mattina in Oltretevere intorno alle 8:10. Punto e a capo. E ora invece ritorniamo in Italia e ci spostiamo anche noi, almeno idealmente, al Salone del Libro di Torino, dove tutta la settimana siamo, appunto, andati in onda in diretta, moltissime interviste, racconti, programmi con il pubblico nella sede, appunto, del Lingotto e gli altri luoghi di incontro del festival. Naturalmente sono stati di fatto toccati tutti i temi principali dell'attualità. Nel corso degli appuntamenti della Zanzara c'è stata anche l'occasione per presentare, tra i mille libri, appunto, della Kermesse torinese, anche quello che verrà presentato, imminente, dell'autista, dell'ex autista di Bossi Senior e Junior, Il giocattolo del trota. Allora lo sentiamo, appunto, Oscar Morando, ospite della Zanzara. Ma scusi, perché lei vuole scrivere adesso un libro, per carità, che si chiama Il giocattolo del trota? Perché lei si sente un po' un giocattolo del trota? No, perché sono stato trattato, no? Che mi sento, perché realmente così sono stato trattato, ecco perché ho scritto questo libro. Qui siamo alla Fiera del Libro, spero che lei trovi un editore, dunque facciamo un appello a tutti gli editori presenti qui. Se non lo trovo, mi piace. Diciamo la verità, è una sorta di diario che io ho scritto per tutti i giorni che ho vissuto all'interno. Ma ci dia una notizia, uno scoop? Ci dia una roba che non sappiamo, che nessuno sa di diario. Non è che ce la fare scoop. Io racconto semplicemente da quando inedita. Io partivo al mattino col ragazzo e fin quando lo portavo a casa e poi lo lasciavo, insomma. Però scusi, perché si sente trattato come un giocattolo? Lei ha lavorato, poi è stato licenziato, ha una causa in corso e vabbè, quello. Da chi è stato licenziato, tra l'altro? Devo precisare che quando accettai l'offerta di lavorare per la Lega era per Umberto Bossi come autista. Senta una cosa, scusi, perché si è sentito utilizzato come un giocattolo? Perché lei deve considerare che quando uno lavora 18-20 ore al giorno giorno e gli atteggiamenti di un ragazzino alla quale è stato fatto un regalo più grande di lui sono atteggiamenti bruschi e arroganti, e la persona che invece fa le sue mansioni svolge il suo lavoro con impegno e dedizione lo sa che a me, scusi Morando, adesso purtroppo siamo stati presi da altre cose, non abbiamo tempo, magari approfondiamo in un altro momento, però le persone che solo successivamente alla caduta di qualcuno se ne escono dicendo quello mi ha trattato male, insomma in tutto questo tempo che lei è stato alle dipendenze della famiglia Bosso o della Lega, non lo so, non è uscita una parola, lei avrà pure fatto un diario, però mi sembra una critica postuma. No, le parole sono uscite, ma le ho fatte uscire da chi di dovere. Le ho fatte uscire, ho fatto presente all'interno della Lega. E che cosa pensava? Che andassi in giro a raccontare quello che io stavo vivendo in quel momento? Chiaramente ma lei ci no. crede che farà, lei ci crede che farà il contadino al muratore, eh? Renzo? Ma se non è capace di fare un cerchio con un bicchiere? Se non è capace? Di fare? Un cerchio con un bicchiere. Ecco, questo è Oscar Morando oggi, Oscar Morando autista di Bossi padre e figlio, che dunque si lancia nella pubblicazione di un volume che dovrebbe rivelare chissà cosa. In fondo già questa storia e questa intervista in fondo rivelano quanto purtroppo sappiamo anche dell'atteggiamento rispetto ai potenti che vengono raccontati, che vengono anche sbeffeggiati solamente quando potenti non sono più. Punto e a capo. Eccoci qua per gli ultimi minuti insieme nell'appuntamento di Punto e a capo. Vi faccio risentire un passaggio che da inizio settimana ci arriva da Essere e Benessere. Si parla di igiene, del fatto di utilizzare sempre lo stesso colore, fare sempre la stessa strada, insomma si parla di manie. Essere e Benessere ne ha parlato dunque martedì, e le piccole manie, ci racconta il dottor Francesco Aquilar, sono rivelatrici del nostro stato d'animo. Sentiamo. Svolgono numerose funzioni. Al primo posto aiutano a ridurre e a gestire l'ansia, se non sono esagerati, perché altrimenti poi nascono come salvagente e diventano un imprigionamento. Poi ci aiutano in alcune circostanze a riorientare e a focalizzare l'attenzione, come per esempio gli scarabocchi che facciamo mentre rispondiamo al telefono, e per certi aspetti ci confermano l'identità personale. In qualche modo noi siamo quelli che non entrano nel cinema quando il film è già cominciato. Quindi da un lato ci fanno sentire più a posto e ci danno benessere, e dall'altro qualche volta ci proteggono come pensiero magico e ci danno l'illusione di riuscire a controllare meglio il mondo esterno. Insomma, le piccole manie, avete sentito, non sono necessariamente negative, non ci devono necessariamente preoccupare. Continuiamo a parlare della vita e della musica. La segnalazione di questa settimana da parte della nostra Marta Cagnola ci porta all'ultimo lavoro di Mario Venuti. Un nuovo disco si intitola L'ultimo romantico. Ma guarda, oggi innanzitutto ho scelto il titolo proprio per contrasto con i tempi che viviamo, che sono estremamente ossessionati dalla razionalità numerica, no? degli indici di borsa, per carità, della crisi economica che effettivamente impone e crea anche sofferenza, quindi c'è tutta la mia comprensione, però per contrasto il nostro lavoro diventa automaticamente una cosa, non dico non è superflua, però assume dei contorni romantici, è un qualcosa che deve far evadere dalla realtà, dalla razionalità, e il romantico è appunto questo: chi reagisce alla razionalità, chi cerca nel sogno una risposta, uno slancio, una lotta anche per i propri ideali. Romantico oggi chi occupa il Teatro Valle per la cultura e il Teatro Garibaldi a Palermo perché si possa continuare ad avere degli spazi per fare cultura, perché veniamo da un periodo in cui tutto è stato troppo teso al profitto economico e a senso unico, e questo ci ha abbrutiti. Fatti non foste per vivere come bruti, eccetera eccetera. Il romantico crede nei sogni, crede anche nell'amore. C'è tanto amore in questo disco, anche se fondamentalmente è anche quello che ci manca. Naturalmente il vero romantico ottocentesco si consumava in lunghi carteggi soltanto con la vista fugace, uno sguardo con la persona amata, quindi succedono queste cose. E quindi insomma spesso è più quello che desideriamo, quello che è appunto è la mancanza che ce ne fa sentire la presenza. E, diciamo, sono meno romantici quei praticoni che si accontentano pur di non restare soli, di stare con chi che sia, e sono molto meno romantici. Punto e a capo. Che domenica bestiale. Domenica da incubo per Silvio Berlusconi, per consolarlo della vittoria dei socialisti in Francia e della batosta nel derby che ha dato lo scudetto alla Juventus, la figlia Barbara gli ha dato una bella notizia. Papi, presto mi sposerò con Pato. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai. Dario Ceccarelli scherza come sempre e noi invece parliamo di calcio, di sport con Carlo Genta che ci ha raggiunto in studio. Allora Carlo, innanzitutto il campionato, dunque lo scudetto è stato assegnato, adesso staremo a vedere le stelle, due, tre stelle, le maglie, il restyling e tutto, ma parlando invece di calcio, cosa resta da decidere? Beh Gigi, rimane da decidere chi andrà in Europa e chi no, e rimane da decidere anche se il Genoa alla fine, con tutta la sofferenza del mondo, riuscirà a rimanere in Serie A. Questi gli ultimi due verdetti. Ci prepariamo a vivere una domenica spezzata in due, in cui sono state collocate alle 15 tutte le partite, tra le 15 e 18 le partite che non contano un tubo se non per la festa. Alle 15 Fiorentina-Cagliari, Juventus-Atalanta e Milan-Novara, alle 18 Cesena-Roma-Parma-Bologna e alle 20.45 si giocheranno invece le partite che hanno ancora qualcosa da dire, con l'Udinese che va a Catania e che è la principale indiziata a quel terzo posto che porta ai preliminari di Champions League. Sperano ancora un po' l'Inter e la Lazio che si trovano di fronte all'Olimpico, poi Chievo-Lecce, Genoa-Palermo sono due incroci per la salvezza, il Napoli ancora, fa ancora un pensierino a quel terzo posto giocando in casa con il Siena, però insomma l'Udinese sul campo di un Catania ormai sazio e soddisfatto, anche se ha perso il suo allenatore Montella che andrà alla Roma come si dice in questi giorni, beh io credo che l'Udinese alla fine possa spuntarla. Per il resto è solo festa, sono saluti, sono in qualche caso lacrime anche di commozione, no? Sono questi i giorni, ultimi giorni di scuola e anche i giorni degli addii dopo quello di Nesta che si è consumato nei giorni scorsi. Ieri ci sono stati due altri grandi addii di due fuoricorso rossoneri come Gattuso e Filippo Inzaghi, che dunque salutano il Milan e salutano i suoi tifosi, lo faranno a San Siro contro il Novara, una partita anche molto amara per il Milan che ha perso lo scudetto. Insomma, giorno di saluti con proiezioni agli europei di calcio, chissà, un tema, come dire, una storia a sé, anche visto tutte le implicazioni geopolitiche, ma un fine settimana in cui c'è spazio per il Giro d'Italia, almeno per la Formula 1. Sì, certamente, il Giro d'Italia che oggi vivrà il primo arrivo in salita, non è una cosa impossibile, però da Recanati a Rocca di Cambio, primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia, quindi potrebbe essere qualcosa di già abbastanza interessante, anche se le pendenze non sono proibitive. Per quanto riguarda invece la Formula 1, si corre al Montmeló, si corre in Spagna. Quelli della Ferrari avevano dato appuntamento un po' a tutti, no? Per una competitività ritrovata ai primi Gran Premi europei. In effetti ieri mattina ci eravamo un po' illusi con Alonso a guidare il plotone, primo tempo di quello di Alonso con le gomme dure. Nel pomeriggio le cose sono un po' cambiate, Alonso è scivolato in 14ª posizione, ma sappiamo che le prove del venerdì contano sempre fino a un certo punto, si comincerà a fare sul serio con le prove che disegneranno la griglia di partenza oggi pomeriggio alle 2. Grazie a Carlo Genta. Dunque l'appuntamento con lui, con i colleghi appunto dello sport nel pomeriggio di oggi e poi naturalmente domani per questa domenica conclusiva del campionato. Grazie a Valeria Bernardi in regia. Da parte mia un saluto, l'appuntamento con Punto a Capo come sempre sabato prossimo a partire dalle 9:10 circa. Buon fine settimana a tutti voi.